Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Poi venne il giorno in cui sparì, forse fu in Erasmus a Parì, tornato a Sorrento, io sto qui, ma che ne so, pensavo fosse una battuta. Invece sto partendo e dal check-in manca come un bagaglio e faccio bip e torno senza cervello in Italia. E latitante per l'Europa, ed ogni tanto manda qualche cartolina, mi racconta la sua vita nuova su Skype, ed io mi sento una mezza sega, c'ho il cervello in fuga. Presto a casa, la pioggia quasi finita. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prima puntata ufficiale del nuovo anno per il nostro programma. Ancora buon 2015 a tutti i nostri ascoltatori. Puntata dedicata a un'altra giovane eccellenza italiana all'estero. Vi regaliamo ancora un po' di magia natalizia portandovi nel mondo dei film di animazione, dove abbiamo scoperto lavorano numerosi professionisti italiani di altissimo livello. Voleremo fino negli Stati Uniti per raccontarvi la storia di uno dei più talentuosi, anche lui emigrato per poter lavorare al top. Ma restiamo in tema artistico. La nostra copertina, che avete appena ascoltato, era opera del cantautore romano Pigi con Cervello in fuga. E la prima frase della settimana 2015 è copyright del console generale a Londra Massimiliano Mazzanti. Nel suo messaggio di Natale agli italiani in Gran Bretagna ha scritto: cari connazionali, il 2014 è stato un anno di nuovi primati per il consolato generale. Sono ormai 235.000 i connazionali iscritti all'AIRE e continuano a crescere a una media di 1.800 nuove iscrizioni al mese. Come ha riconosciuto la Fondazione Migrantes, il Regno Unito è stato il paese dove gli italiani sono emigrati maggiormente nel corso dell'ultimo anno, più 71%. Numeri questi della console che ci restituiscono l'enormità dell'ondata migratoria tricolore oltremanica. Il tutto mentre aggiungiamo si moltiplicano le iniziative legate alla riconnessione dei nostri talenti fuggiti, tra le ultime quella della vigilia di Natale a Bari, si chiamava Scappati di casa, primo meeting dei cervelli in fuga dal capoluogo pugliese. E mentre cediamo la nostra forza lavoro più qualificata, non attiriamo o sfruttiamo male quella straniera. I dati lo confermano. Arrivano immigrati scarsamente qualificati e i pochi con capitale umano elevato li releghiamo a ruoli marginali. Secondo il rapporto ISMU, il 29% degli stranieri qui in Italia è impiegato in un'occupazione elementare, il 52% lavora come operaio specializzato, il 13% svolge funzioni impiegatizie e solo il 5% occupa una posizione apicale. Neppure uno su 10 tra gli stranieri, diplomati e laureati, svolge un lavoro qualificato, mentre più di 4 immigrati su 10 risultano sovraistruiti. Come pretendere di attrarre con questi numeri immigrazione qualificata? Anche perché ci sono paesi nel mondo che dell'attrazione dei talenti hanno fatto un punto di forza. Gli Stati Uniti, per esempio. L'ambiente di lavoro era splendido, in quanto lavorare soprattutto con i registi come George Miller, Andrew Stanton, Gandhi Tartakovsky o Chris Wedge era qualcosa di incredibile. I registi poi sono molto aperti a nuove idee e consigli e quindi ti aiutano e ti supportano in ogni scena da animare e ti lasciano piena libertà di espressione. Gianluca Fratellini, 34 anni, un 3D character animator, lavora in America sui film di animazione dopo una carriera ai quattro angoli del mondo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziario. In apertura il nuovo drammatico record della disoccupazione giovanile in Italia, a novembre pari al 43,9%, il valore più alto mai registrato, in cerca di impiego 729.000 giovani. Intanto, secondo il centro studi Confindustria, durante la crisi i 55-64 anni al lavoro sono aumentati di oltre 1 milione, contro il calo di 1,6 milioni tra i 25-34 anni. Per gli over 55 il tasso di occupazione è salito al 47% nel terzo trimestre, per i giovani è sceso di converso al 59%. Siamo quarti in Europa per dimensione della caduta del tasso di occupazione giovanile dopo Grecia, Spagna e Irlanda. Notizie dalle regioni. La Toscana prevede di portare all'estero 1.000 persone grazie a 28 progetti di stage, visite e di studio. Proprio la Toscana ha recentemente concluso Let's Go, programma che ha permesso a 37 giovani di svolgere un tirocinio di 3 mesi all'estero presso aziende europee. Per 18 di loro l'esperienza si è tradotta in un'offerta di lavoro. presentata la collaborazione tra il progetto Garanzia Giovani Piemonte e il motore di ricerca Monster Italia. L'accordo intende potenziare il ventaglio di opportunità per la mobilità all'estero con una selezione di annunci di offerte di lavoro di aziende che cercano talenti per il mercato oltre confine. Info su garanziagiovanipiemonte.it. Intanto 40 giovani laureati molisani andranno a fare un'esperienza di 6 mesi all'estero per formarsi grazie al programma regionale Vado e Torno, tirocini per i processi di internazionalizzazione. E sono almeno 500 i giovani bellunesi che negli ultimi 4 anni hanno cercato lavoro all'estero passando attraverso i canali dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Si tratta soprattutto di giovani neolaureati o precari. Germania, ma anche Scozia, Inghilterra e Canada. Questa è la mappa della nuova emigrazione. Ora invece vi raccontiamo la storia di una scommessa, quella dell'Istituto San Galli, che ha aperto ufficialmente le porte a fine novembre a Firenze. Una realtà privata nata per sostenere i giovani ricercatori in materie umanistiche con borse di studio e assegni di ricerca. Tra gli obiettivi, fermare la fuga dei cervelli all'estero e farli tornare in Italia. Ne parliamo con il presidente e fondatore dell'Istituto, Maurizio San Galli. Quando ero un giovane ricercatore ho avuto soprattutto aiuti finanziari da parte di istituzioni straniere all'estero o di istituzioni straniere in Italia, ed è questo un po' anche il percorso dei giovani che collaborano con l'Istituto San Galli. Quindi diciamo che da una ventina d'anni le cose in Italia non sono cambiate, quindi la ricerca si fa sempre di più ormai, anche quella umanistica, fuori dalle università. Ecco quindi che mi è venuta l'idea di creare un istituto privato e finanziarlo con patrimonio privato, che è quello appunto della mia famiglia di origine. Concretamente come funzionano queste borse? Per il momento siamo partiti con una borsa semestrale per un importo direi equiparabile a quello che un giovane prende nel corso del dottorato di ricerca. Siamo sui 1000 euro al mese e ci sono dei bandi aperti, e questo è importante, non solo a studiosi italiani ma anche a studiosi stranieri. Mi sembra l'obiettivo principale sia far circolare talenti nel campo umanistico dell'Accademia. Esatto, sì, con direi un modello però innovativo, vale a dire non è il solito istituto che va con il cappello in mano a chiedere alle istituzioni bancarie piuttosto che alle istituzioni pubbliche la possibilità di finanziarsi, ma è un istituto che si finanzia da solo con i proventi che derivano da tutto ciò che ruota intorno all'istituto, e quindi ovviamente si porrà sia nei confronti dei privati sia nei confronti delle istituzioni pubbliche come un qualcosa che offre collaborazione e non richiede solo contributi. E vi ricordiamo che i bandi sono scaricabili dal sito www.istitutosangalli.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel mondo dei film di animazione, traghettandoci fino a New York, in una vicenda personale e professionale che abbraccia più continenti. Storia che vede protagonista un altro giovane talento italiano. Nome: Gianluca. Cognome: Fratellini. Età: 34 anni. Città di origine: Modugno, provincia di Bari. Studi: diploma di liceo scientifico. Anno in cui ha lasciato l'Italia: nel 2000. Per andare dove? Inizialmente in Lussemburgo. Perché? E per iniziare uno stage di 3 mesi in una società di cartoni animati in 3D. Quale lavoro svolge attualmente? Mi occupo di 3D character animation. Dove? Presso la Blue Sky Studios, qui a New York. Tornerai? Lo spero, ma non solo come turista. E qualcuno lo avrà riconosciuto, il piccolo e immaginario Scrat, uno dei protagonisti del film di animazione L'era glaciale, in perenne ricerca della sua ghianda. L'era glaciale, un vero blockbuster per la quinta serie della saga. All'opera c'è anche il talento made in Italy di Gianluca Fratellini. In Italia, ci scrivi, non ho mai trovato un lavoro simile che mi soddisfacesse. Per questo ho deciso di iscrivervi, cercando di introdurvi nella mia vita e nel mio percorso lavorativo all'estero. Pur con un certo ritardo, abbiamo deciso di dedicare alla tua bellissima storia la prima puntata, 2015. Premesso che il tuo è un settore molto particolare, Gianluca, credi che il nostro paese potrebbe e dovrebbe fare di più per i suoi tantissimi giovani talenti creativi anche nel settore animazione? Concordo subito con il fatto che purtroppo il settore dell'animazione 3D è rimasto un po' sempre indietro rispetto ad altri paesi. Sin da quando ho lasciato l'Italia 15 anni fa, diciamo che la situazione non è cambiata molto, se non peggiorata. La tua storia, Gianluca, sembra tratta da un film. Nasci in Puglia e già da adolescente scopri una fortissima passione per l'animazione, cominciando a disegnare fare con AutoCAD e CorelDRAW, un talento naturale che però non viene compreso al liceo scientifico. Il nostro sistema scolastico, ti chiedo, incoraggia la creatività individuale, stimola la crescita del talento oppure preferisce una più comoda uniformazione? Credo che sia importante, diciamo, avere un sistema scolastico che offra la possibilità di conoscere quante più materie possibili, lasciando poi magari l'individuo lasciare lo spazio per magari nutrire una curiosità. Ma nel tuo caso l'hai sperimentato? C'è stato questo spazio? Sì, questo spazio l'ho trovato, e molte volte questo spazio nasce anche da un conflitto magari con la scuola stessa che porta a sviluppare una creatività laterale. Questo è interessante. A 18 anni, in piena autonomia, realizzi il tuo primo corto d'animazione, A Bug's Story, ispirato a un film Pixar. Tra poco capiremo quanto quel corto abbia influenzato la tua vita. Prima però una parentesi universitaria. A Bari, dove frequenti il primo anno di informatica, che ricordi hai di quell'anno? Soprattutto, che voto daresti all'università italiana? Ho frequentato i primi anni di informatica, ma avrei voluto magari frequentare ad esempio lo IED, che poi mi è stato assolutamente distrutta come idea, poiché i costi erano molto elevati e quindi non ho potuto neanche frequentare questo tipo di scuole. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Il pugliese Caparezza ci porta con te in Lussemburgo. Il piccolo Granducato rappresenta infatti la prima tappa nel tuo ormai ultradecennale percorso di carriera all'estero. Una storia a parte merita il modo in cui ci arrivi in Lussemburgo. Alla fine è bastato far girare il curriculum, no? A 18 anni inizio a realizzare da autodidatta il primo corto di animazione Backstory. Compilo così per caso una scheda sul sito Animation World Network, dove inserisco i miei dati e anche alcuni miei lavori che stavo realizzando come autodidatta in casa. E poi incredulo vengo contattato da questa compagnia Oneria Pictures in Lussemburgo, che dopo avermi chiesto di mandargli una VHS con tutti i miei test d'animazione del corto che stavo realizzando, dopo due settimane mi chiede di iniziare uno stage remunerato di 3 mesi. Ecco, bello l'aggettivo incredulo, ma la domanda è un'altra: quanto è stata dura così giovane, praticamente neodiplomato, trasferirsi a vivere in un paese tra i meno noti e i più piccoli d'Europa? Inizialmente è stata un'esperienza traumatica, dopotutto avevo 20 anni, non ero mai partito da solo fuori dall'Italia, era la mia prima offerta di lavoro come stagista, poi come junior animator in una serie televisiva e dovevo comunque ricominciare da zero, una nuova vita, sfruttare anche le mie conoscenze linguistiche. Chiaro. Come il francese e l'inglese. Per farla breve, la Oneria ti offre a termine dello stage un contratto a tempo indeterminato per lavorare su 2 lungometraggi, il che ti permette di essere esonerato dall'ormai ex servizio militare, ed è il tuo colpo di fortuna. Parallelamente, nel tempo libero, realizzi infatti Life in Smoke, corto di 7 minuti che ti spalanca le porte del successo internazionale. Quanti riconoscimenti ha ricevuto quel corto? Life in Smoke tratta l'argomento del fumo passivo e attivo, in chiave però ironica e come un po' cartone animato per un pubblico adolescenziale. Mi permette anche di ricevere riconoscimenti internazionali come al Giffoni Film Festival o al Cartoons on the Bay o la selezione al David di Donatello, Galarin Banté di Ubisoft in Canada e alcuni premi in Grecia, e quindi oltre a questo ricevo anche nuove offerte di lavoro. Un corto che però che mi ha aiutato in questo senso, ma non è mai stato preso in considerazione in Italia dalle istituzioni come magari una pubblicità progresso contro il tabagismo. Da allora prendi via la tua carriera su scala globale, lasci Lussemburgo, voli in Canada da Ubisoft, dove lavori sulle animazioni di alcuni dei più celebri videogiochi. In realtà però è solo una parentesi prima di tornare al cinema d'animazione. Tappa successiva all'Australia, dove lavori ad Happy Feet di George Miller, con il quale vinci un Oscar quale miglior film d'animazione, e avevi solo 27 anni. Quale ambiente di lavoro hai trovato nel mondo dei film di animazione? L'ambiente di lavoro era splendido, in quanto lavorare soprattutto con i registi come George Miller, Andrew Stanton, Gandhi Tartakovsky o Chris Wedge era qualcosa di incredibile. I registi poi sono molto aperti a nuove idee, consigli, e quindi ti aiutano e ti supportano in ogni scena da animare e ti lasciano piena libertà di espressione. Dall'Oscar in poi la tua è una storia di successi, ti trasferisci in Spagna, poi Gran Bretagna, poi di nuovo Canada, prima di approdare a New York, dove vivi ora. Tra i film a cui lavori figurano anche Paul, Hotel Transylvania, Rio 2, a breve in uscita L'Era Glaciale 5 e Peanuts. Attualmente sei alla Blue Sky Studios, in quale ruolo? Sono un 3D character animator e lavoro quindi, ho lavorato su Peanuts fino ad ora e ho cominciato su L'Era Glaciale 5 e in questo momento quindi sto animando lo scoiattolo Scratch. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Gianluca Fratellini, 34enne 3D character animator al lavoro negli Stati Uniti. Per Gianluca è una passione che sboccia fin da scuola, quella per l'animazione. Un suo corto gli regala il ticket per l'estero con la prima esperienza in Lussemburgo. Da lì si dipana una carriera che lo porterà ai quattro angoli del pianeta, al lavoro su alcuni dei film di animazione più noti degli ultimi anni. Peccato solo che per Gianluca, vero talento made in Italy, la penisola resti attrattiva solo per farci le vacanze, non certo per lavorarci. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. I cervelli in fuga sono persone che seguono la propria passione in cerca di un nido dove venga rispettata, è dichiarato all'ANSA. Il tema è proprio quello del rispetto. Ti chiedo, quanto hai visto rispettato il tuo talento e la tua vocazione artistica sia all'estero sia in Italia? In Italia è sempre stato visto come un semplice hobby questo lavoro. Non ho mai veramente lavorato in Italia. Inizialmente ricordo di aver fatto menu per ristoranti, addirittura facevo magari fotoritocchi per fotografi. Lo facevo come con passione, ma in Italia viene sempre vista come un favore. Quella di e infatti Gianluca, ma non è paradossale che un paese di creativi come il nostro finisca con lo sminuire tutti quei lavori ad alto tasso proprio di creatività nel settore della cultura e dello spettacolo? Sì, sicuramente. In realtà in Italia il creativo viene visto come il giullare di turno e non come una forma d'arte o di lavoro. È uno spreco enorme di potenzialità. Preparando la trasmissione abbiamo contato l'enorme quantità di talenti dell'animazione italiana al lavoro all'estero, tra Stati Uniti, Australia e Spagna. Alcuni di loro sono anche mostri sacri nel settore dell'animazione e degli effetti speciali. Quanto considerano attrattivo il nostro paese in un'ottica professionale e anche di possibile ritorno? Beh, credo che la risposta sia, diciamo, relativa in base alle vite che ognuno fa, e comunque sono sicuro che la maggior parte sarebbe ben disposta a tornare in Italia se ci fosse quel minimo di cambiamento e questa tabula rasa del sistema politico e finanziario che, diciamo, sta distruggendo l'economia, in quanto poi ci sono moltissimi artisti davvero in gamba sparsi nel mondo, magari fermi lì in Italia, in attesa di qualche lavoro. L'Italia è una bella meta per il turismo ed è un paese ricco di talenti chiosi, addossando le colpe delle nostre disgrazie alla classe politica. Questo nella lettera che ci hai scritto. E allora ti chiedo, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Beh, in Italia ogni anno 100.000 persone lasciano questo paese. È un paese che si svuota, che perde sangue. Quindi se pensiamo a quante persone potessero magari ricominciare tutto altrove, deciderebbero tutti di pensarlo all'estero. Quindi l'immigrazione, diciamo che è la prima prova che mostra quanto sia difficile essere felici e fare il proprio lavoro in Italia. Ci raggiunge ora in linea Bruno Bozzetto, noto animatore, fumettista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi tutti. Bruno Bozzetto, l'ho presentata ma non c'era bisogno di presentazioni. Le chiedo, cosa ci insegna la storia di Gianluca Fratellini? È un piacere trovare gente come lui che purtroppo però finisce all'estero. E io dico che ci insegna purtroppo che per fare qualcosa di bello bisogna scappare dall'Italia, e questo è vero. Noi stiamo lavorando, io ho avuto la fortuna di lavorare moltissimi anni fa e quindi avevo un mondo un po' diverso. Oggi è sempre più difficile soprattutto garantire la continuità del lavoro, questa è la cosa più difficile. Ecco, lo ha detto lei stesso, un po' di anni fa era più semplice, cos'è cambiato da allora? Ma in realtà non è che sia cambiato molto, è diventato più difficile. Prima realizzare un film era difficile, ma si era in tre a farlo o in due e quindi si appariva subito e si veniva notati. Oggi dover fare un film in mezzo a una produzione continua, meravigliosa e di altissima qualità come quella americana, significa dover combattere almeno ad armi pari. Invece in Italia siamo sempre nella situazione di tanti anni fa e quindi non è cambiato nulla. E lei cosa consiglierebbe a un giovane con la passione e il talento di Gianluca nel campo dell'animazione? Restare o andarsene? Se non c'è lavoro e soprattutto se non si dà una credibilità a questo lavoro, che è magnifico, che è creativo, che è di alto livello e lo si considera sempre come un qualcosa da fare per bambini, un riempitivo, non gli si dà importanza, è chiaro che non si farà molta strada. Oggi l'unica strada è ancora quella della televisione, la RAI, che aiuta queste produzioni, ma si deve soprattutto parlare di lavori per bambini, e questo lo trovo assurdo perché abbiamo visto che i più grandi successi mondiali, dalla Pixar alla DreamWorks alla Blue Sky eccetera eccetera, sono film che si rivolgono a tutti e non soltanto ai bambini. L'Italia è intossicata, ha troppi parassiti, sono gli amici e gli amici degli amici, incapaci, lavati, smidollati. spoltronizzati da tutti quei politici idici che aiutano chi li vota e non chi vale, polverizzando il merito, valorizzando il male. Ma qui si premia il ladro invece del corretto, si prende a calci il valido invece del furbetto. E di cervelli e mi... Qualche anno fa Bruno Bozzetto la intervistammo a Giovani Talenti quando lei realizzò un corto di animazione, Meritocrazia. Lei denunciava proprio come la mancanza di meritocrazia innescasse la fuga dei cervelli dall'Italia. Allora oggi, 2 anni dopo, il suo indimenticato signor Rossi, come giudicherebbe il nostro paese? Ma diciamo che un goccino di più di ottimismo ce l'ha, ma per forza, se non avessimo l'ottimismo dovremmo spararci o emigrare tutti in massa. Si cerca di sperare sempre in qualcosa di meglio, però devo dire che il discorso fondamentalmente non è cambiato, cioè la meritocrazia non ha il valore che dovrebbe avere, cioè una persona che vale deve poter essere apprezzata per quello che fa. Questo non succede quasi mai, perché ci si accorge che alla fine, di fronte alla scelta per un lavoro, per una produzione, riesce ancora a spuntarla quello che ha l'amicizia, che ha il giro giusto e non quello che ha fatto il lavoro migliore. Gianluca, hai una domanda per Bruno Bozzetto? Più che una domanda, concordo assolutamente con quello che ha detto il maestro Bozzetto, anche se lui odia essere chiamato maestro, ma è, per me lo è sempre stato. E, diciamo che in effetti è vero il fatto che in Italia purtroppo il settore dell'animazione è più indicato ad un pubblico adolescenziale e non spinto per un pubblico adulto, in realtà, visti che molti film di animazione sono più indicati ad un pubblico adulto, se vediamo i film della Pixar o DreamWorks o Blue Sky magari. Quindi sì, concordo assolutamente con quello che ha detto il maestro Bozzetto. Allora intanto ringrazio e saluto Bruno Bozzetto, ancora in bocca al lupo per i suoi prossimi progetti. Grazie, tanti saluti a tutti voi. E domanda di rito per Gianluca Fratellini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Ci vuole coraggio, determinazione, ma soprattutto una vera passione per quello che si fa, e non partire mai con le valigie vuote, a imparare a conservare le conoscenze che si studiano, come le lingue, o magari non partire così come se fosse una vacanza, perché bisogna essere preparati anche all'estero per poter accedere ad alcuni lavori. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Nuova puntata della rubrica andata a cura di Aldo Mencaraglia di Italians in Fuga, rubrica a cui dedichiamo ogni primo sabato del mese ampio spazio. Oggi Aldo, nella prima puntata 2015, ci regala 6 consigli utili per andare a lavorare all'estero. Anno nuovo, vita nuova. Se il vostro proposito per il 2015 è quello di andare a lavorare all'estero, ecco 6 consigli per ottimizzare le probabilità di successo. Chiedetevi se volete veramente emigrare. Non necessariamente l'estero si rivelerà la soluzione ai vostri problemi. Anche se trovate lavoro, la lontananza da affetti e amicizie può farvi rimpiangere il trasferimento. Cercate il più possibile a mente fredda di essere onesti con voi stessi e chiedervi se siete veramente disposti a lasciare gli aspetti positivi della vita in Italia, e ce ne sono, per rimediare agli aspetti meno soddisfacenti. Siate chiari su verso dove puntare. Ci sono centinaia di nazioni e innumerevoli città che possono accoglierci. Dovete essere molto precisi nel definire la vostra destinazione. Informatevi sulla necessità o meno di ottenere un visto lavorativo e sulle prospettive a medio e lungo termine che la destinazione offre. Sapete la lingua straniera in modo sufficiente? Questo è il fattore che più determina il successo all'estero. Siate molto severi nell'autovalutarvi. L'inglese scolastico non basta, e in nazioni dove non si parla l'inglese, senza la lingua del luogo non si vive. Insomma, investite il più possibile nel miglioramento della lingua straniera prima di partire. E preparatevi a scoprire sulla vostra pelle che, anche così facendo, la strada sarà in salita agli inizi. Informatevi sulle possibilità lavorative presso la destinazione scelta. Già dall'Italia sondate il mercato del lavoro estero. Spedite CV, rispondete ad annunci, contattate aziende del posto. Realisticamente, nella maggior parte dei casi, tutto ciò non porterà a concrete offerte di lavoro, ma il responso alle vostre azioni vi farà capire meglio quali possibilità ci siano per qualcuno con la vostra esperienza. Iniziate a tessere una rete di conoscenze. Grazie a internet è possibile, già dall'Italia, crearsi un network di conoscenze che possono aiutare a compiere il salto e ambientarsi più velocemente una volta arrivati a destinazione. Abbiate pazienza.